falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. È il 1900, nasce un nuovo secolo che verrà illuminato dall'elettricità, messo in comunicazione dalla radio di Marconi, relativizzato dalle teorie di Einstein e attraversato da movimenti d'arte avanguardisti. Una nuova era muove i suoi passi, volano i primi aerei, nasce il cinema, la psicanalisi, vengono assegnati i premi Nobel, la Torre Eiffel, appena terminata di costruire in occasione dell'Esposizione Internazionale di Parigi, appare come il modernissimo faro di una civiltà che si affaccia fiduciosa. È un'epoca eccitante, incalzante, che induce uomini che osano a rompere col passato per schierarsi di fianco a un futuro che sembra recare solo belle promesse. Tra questi, uno dei più provocatori e dirompenti è Filippo Tommaso Marinetti, l'uomo che predisse il futuro. Abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione, anche quando ha torto, perché è il movimento, la vita, la lotta, la speranza. Alessandria d'Egitto, 22 dicembre 1876. La quiete e il silenzio della città vengono improvvisamente interrotti da un urlo deciso, esigente. Nasce, già col piglio di chi sente che il mondo lo sta attendendo, l'uomo che avrebbe fatto dell'impeto la sua ragione di vita, Filippo Tommaso Marinetti. La seconda città d'Egitto è una metropoli cosmopolita dove francesi, italiani e russi convivono con arabi, ebrei in un crogiolo che produce ricchezza e varietà di intelletti. Il padre Enrico è un avvocato prestato agli uffici commerciali della società francese Compagnia Universale del Canale Marittimo di Suez, fondata nel 1858 per volontà del diplomatico francese Ferdinand de Lesseps, che è l'uomo che insieme all'ingegnere trentino Luigi Negrelli rese possibile un sogno, quello di unire l'Oceano Indiano con il Mar Mediterraneo, perché poco meno di 10 anni prima della nascita di Marinetti viene completato il canale di Suez. È una delle prime grandi opere che segnano l'inizio di un'epoca moderna, dinamica, densa di possibilità. È l'inizio del futuro. Frusciano nell'aria voci di una radio, parlano di Ciano, di battaglie per il grano. Il trio lescano e la guerra si avvicina già. Filippo Tommaso cresce dunque in un ambiente ricco di stimoli. Già in famiglia la madre, Amalia Grolli, lo incita a leggere Dante e D'Annunzio e al tempo stesso viene mandato a studiare al collegio Saint-François Xavier dai padri gesuiti francesi. Il padre spera di farne un avvocato per affidargli forse le redini dei suoi affari che ormai sono diventati cospicui. Grazie alla sua operosità, infatti, Enrico Marinetti si è messo ben presto in luce nella città egiziana, tanto da diventare in pochi anni il legale personale del Khedive Mohamed Tafik Pasha, accumulando in questo modo un considerevole patrimonio. Ma al contrario del padre, è la letteratura il vero amore del giovane FT, come si fa a chiamare Marinetti. A 17 anni fonda la sua prima rivista scolastica, Le Papyrus. Ed è per amore della letteratura che si fa cacciare da scuola, dopo che i padri gesuiti lo scoprono a leggere un libro dell'autore proibito Émile Zola. I genitori sono costretti così a mandare Filippo Tommaso a Parigi per conseguire il baccalaureato. È la sua prima volta nella Ville Lumière, ma l'amore che nasce resterà una costante nella sua vita. Aiutato anche dal bilinguismo, Marinetti esplora la città, ne respira la grandeur, stringe amicizie che resteranno per sempre. Nel frattempo il resto della famiglia fa ritorno in Italia e si stabilisce a Milano in via Senato. Marinetti si iscrive a legge a Pavia. Ma improvvisamente il fratello più grande Leone muore, è un vero shock, la vita appare breve, fugace, non si può sprecare in cose che non siano della massima importanza. Con quest'idea Filippo Tommaso abbandona il diritto e, nonostante si sia laureato da poco, abbraccia definitivamente la poesia. For the mother in confusion, her cradle still unfailed. For the heart with no companion, for the soul without a king. For the prima ballerina who cannot dance to I primi componimenti di Filippo Tommaso Marinetti sono apprezzati più in Francia che in Italia, forse perché i francesi sono già abituati a un poeta italiano che a quel tempo furoreggia nei salotti parigini, naturalmente Gabriele D'Annunzio. Beh, Marinetti nutre sentimenti ambivalenti nei confronti del vate, come viene chiamato D'Annunzio. Non lo ama, però scrive una raccolta di scritti in francese dedicati al poeta. Gli dèi se ne vanno, D'Annunzio resta. Una violenta simpatia mi obbliga sempre ad ammirare in lui il prestigioso seduttore, l'ineffabile discendente di Casanova e Cagliostro e di tanti avventurieri italiani, di cui restano leggendari l'astuzia, il coraggio vittorioso, l'infaticabile strategia diplomatica. Alla fine però, per vari motivi, Marinetti modifica la sua opinione, finisce per considerare D'Annunzio uno dei mali della poesia italiana. Bisogna ad ogni costo combattere Gabriele D'Annunzio, perché egli ha raffinato con tutto il suo ingegno i quattro veleni intellettuali che noi vogliamo assolutamente abolire. Primo, la poesia morbosa e nostalgica. Secondo, il sentimentalismo romantico grondante di Chiaro di Luna. Terzo, l'ossessione della lussuria. Quarto, la passione professorale del passato. Quinto, forse il fatto che, a differenza di D'Annunzio, Marinetti non si è ancora riuscito a imporre nella capitale francese. Però lui non si scoraggia. Nel 1905 pubblica a sue spese la rivista Poesia, con l'idea che riesce di farne un luogo d'incontro per scrittori e poeti. Nel 1907, con la pubblicazione di un'inchiesta sul verso libero, Marinetti getta sulle pagine della rivista le basi di quella che sarà la sua rivoluzione più grande, il Manifesto del Futurismo. Falco e il Gabbiano. Vi stiamo raccontando una storia che si accende all'inizio del XX secolo e che, come un fulmine, attraversa i primi anni del Novecento col preciso intento di distruggere il passato, di andare contro la tradizione, di rincorrere dinamicamente il futuro. Dietro a questa storia c'è un uomo. Quest'uomo si chiama Filippo Tommaso Marinetti, è un rivoluzionario, un provocatore, un innovatore, ma soprattutto è uno che prevede un futuro elettrico, veloce, cosmopolita, un futuro in cui gli uomini parleranno con telefoni senza fili e vivranno in ambienti climatizzati. La capacità visionaria di Marinetti è tale che arriva perfino a immaginare qualcosa che è molto vicino agli attuali computer. Nei prossimi decenni, grazie all'uso dell'elettricità, scriveremo su libri di nickel alti non più di 3 centimetri, dotati di tastiere, e ciascuno di questi conterrà l'equivalente di centinaia di migliaia di pagine. Beh, chapeau, prevedere l'avvento del computer agli inizi del Novecento veramente rende Marinetti unico nel suo genere. Intanto lui, che è amante delle auto, delle donne, della vita, non si concede riposo, perché tutto in lui tende al domani. Il suo bisogno è quello di contrastare il passato per rinnovare l'avvenire. E casualmente sarà proprio un'auto e la velocità a suggerirgli l'opera che cambierà la sua vita, perché nel 1907 il padre Enrico muore nella grande casa di via Senato a Milano e Marinetti si trova padrone di un cospicuo patrimonio e una delle sue prime spese è una splendida Isotta Fraschini che però lui non sa guidare. Velocità crescente e impeto del motore che vuole strapparmi il volante dalle mani mie fragili di poeta, rasentare un canale di fangosa acqua d'officina e scorgere a 100 metri due incauti ciclisti già promessi alla furente ingordigia delle mie ruote. Istintivamente, per questo, scarto il mio ventre dal volante. Quando sento planetariamente capovolgersi, lenta, meno lenta, prestissimo, la mia 100 cavalli su di me, faticosamente, a rantoli, mentre operai accorrono, mi estraggono straccio fangoso elettrizzato da una gioia acutissima che collauda con spasimosi rigurgiti di orgoglio volitivo, il futurismo. L'incidente accaduto con la sua Isotta Fraschini viene considerato da Marinetti l'episodio scatenante, grazie al quale l'idea del futurismo si fa strada nella sua mente. In un primo momento avrebbe voluto chiamare il suo nuovo movimento elettricismo, ma il pensiero di poter essere chiamati gli elettricisti gli fa subito orrore e cambia idea. Il futurismo invece è perfetto perché descrive uno slancio nell'avvenire che ben si sposa con gli ideali di Marinetti. La parola futurismo vede la luce l'11 ottobre del 1908. Marinetti non può fare a meno di notare la data, l'11, un numero che per lui è speciale e fortunato, ma inizialmente il movimento, almeno in Italia, passa in sordina, riconosciuto solo da qualche letterato nostrano, e quindi Marinetti torna a Parigi, la città che lo ha sempre accolto generosamente. The continent's just fallen in disgrace. William, William, William Rogers put it in its place. Blood and tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la la la la la la la la. Yes, you're a ghost, la la la la la la la la. I'm the bishop and I've come to claim you with my iron drum, la la la la la la la la. Il 20 febbraio 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblica sulla prima pagina del quotidiano francese Le Figaro il manifesto iniziale del futurismo. Come mai lo pubblica proprio sul Figaro? Ce lo spiega la figlia del poeta, Luce Marinetti. Marinetti viveva in Francia già da parecchio tempo e quindi, trovandosi a Parigi, naturalmente conosceva un'infinità di gente, tra cui anche il direttore dello Figaro, che lui frequentava costantemente, come tutti i parigini intellettuali frequentavano. E lui è stato talmente entusiasta dell'idea di Marinetti lanciare questo manifesto che l'ha pregato di pubblicarlo lui, e quindi così è stato il lancio del primo manifesto. C'è un'altra versione più prosaica, forse Marinetti, avendo sedotto la figlia di uno dei proprietari delle Figaro, si è in qualche modo ingraziato i favori del giornale al punto da garantirsi la prima pagina. Comunque, dalle prime righe è chiaro che il manifesto del futurismo promuove un'idea rivoluzionaria. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Il manifesto, che qui viene letto da un fantastico Carmelo Bene che ne evidenzia ancora di più la forza, il manifesto contiene 11 punti, 11 indicazioni che esprimono la filosofia futurista in reazione a un immobilismo culturale e artistico. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente luci elettriche. Marinetti in realtà non vuole distruggere nessun museo, ha troppo senso estetico e amore dell'arte per immaginare soltanto la distruzione di luoghi simili. Però è vero che detesta l'immobilismo, la polvere e la chiusura degli ambienti accademici. È un provocatore e allo stesso tempo il suo antifemminismo non è altro che il rifiuto di una femminilità un po' leziosa, un po' svenevole, che lui considera dannunziana. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni, di antiquari. I più anziani tra noi hanno 30 anni. Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra. Quando avremo 40 anni, altri uomini più giovani e più validi di noi ci gettino pure nel cestino, come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo. Ma tra tutti i punti all'insegna dell'innovazione del rottamatore Marinetti con il suo manifesto futurista troviamo un punto molto controverso e tra poco scopriremo quale. Vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Con queste parole Filippo Tommaso Marinetti inaugura il futurismo. Di questo stiamo parlando, di un uomo che fa crescere e nascere un movimento che rifiuta il passatismo, come egli definisce tutto il retaggio storico e culturale del passato, per abbracciare un futuro fatto di movimento, velocità, elettricità, dinamismo. Marinetti è l'emblema dell'uomo futurista e l'abbiamo sentito prima, è nato a Alessandria d'Egitto da genitori italiani, è bilingue, è cosmopolita, è frenetico, è rivoluzionario, per questo pubblica per la prima volta il suo manifesto non in Italia ma a Parigi, sulla prima pagina delle Figaro, per sancire l'internazionalità del suo progetto. In esso letteratura, arte, architettura, linguaggio, ognuna di queste espressioni deve avere un carattere aggressivo, quasi fisico, di scontro. Il bisogno del confronto è tale che Marinetti arriva a teorizzare con entusiasmo perfino l'aspetto più terrificante dell'animo umano, la guerra. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Il futurista non può comprendere il pacifismo, perché il dinamismo, il bisogno costante di misurarsi fisicamente, oltre che spiritualmente col mondo, lo inducono a mitizzare la guerra come un momento di gloria, di patriottismo, di azione, di utilizzo delle armi, tra l'altro, che sono le espressioni, ahimè, di una produzione industriale super moderna. Ora, questo desiderio per noi è inspiegabile, ma forse la ragione sta nel fatto che gli uomini dell'inizio del secolo non hanno ancora sperimentato una guerra totalizzante e devastante come quella mondiale, una guerra che solo pochi anni dopo sconvolgerà il mondo. La guerra è la sintesi culminante e perfetta del progresso. Velocità aggressiva più semplificazione violenta degli sforzi verso il benessere. La guerra è un'imposizione fulminea di coraggio, di energia e di intelligenza a tutti. Scuola obbligatoria d'ambizione ed eroismo. Pienezza di vita e massima libertà nella dedizione alla patria. It's a time of war. Though I know I mustn't crumble, it's a time of war. Tra il 1909 e il 1910 Marinetti si lancia in una frenetica attività di promozione del suo movimento, il movimento futurista. E il suo entusiasmo diventa contagioso. Molti giovani di ingegno si uniscono a lui nello sforzo di ridisegnare il futuro. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Aldo Palazzeschi sono tra i suoi più grandi sostenitori. Negli anni a seguire nascono il nuovo manifesto dei pittori futuristi e il manifesto tecnico della scultura futurista e quello dell'architettura. E poi quello della letteratura futurista. Quest'ultimo ha un progetto ambizioso: distruggere la sintassi, usare i verbi solo all'infinito, abolire aggettivi e avverbi, abolire la punteggiatura. Questa nuova forma di letteratura viene chiamata da Marinetti paroliberismo, ovvero parole in libertà. Nel 1914, per celebrare l'assedio di Adrianopoli durante il conflitto turco-bulgaro, pubblica un'opera letteraria dal titolo molto futurista, Zang Tumb Tumb, che sperimenta il nuovo linguaggio. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spencare spazio con un accordo. Pam, pum, pum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom-pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto. Taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi. Pit-pac, bum-tum, pit-pac, bum-tum, vitarie, salti 200 metri, fucileria. Opere di questo genere lasciano pensare che Filippo Tommaso Marinetti è un uomo che si diverte molto, perché dietro a questa sua furia provocatoria, dietro dichiarazioni spiazzanti, c'è un animo libero. Libero anche dall'affanno di doversi guadagnare da vivere, per la verità. Un animo libero che si diverte a esercitare il suo intelletto in attività puramente concettuali, facendo esperimenti quasi infantili. Giù su in fondo all'orchestra stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flick-tac, zin-zin, shot-hot, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, crop-crop, crop-crop, su mi marizza, o carvavena, zrrr-zrrr-zrrr-zrrr. 200 tanti in arrivo, tchang, tum, tum, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, crop-crop. Grida gli ufficiali, sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, bum, bum, ciò! Bello, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Ma se dalle pagine dell'opera Zang Tum Tum la guerra sembra quasi un gioco, non è altrettanto un gioco quella che proprio nel 1914 coinvolge tutto il continente. Allo scoppio del primo conflitto mondiale, Filippo Tommaso Marinetti si arruola insieme a Boccioni, Sironi, a Carlo Carrà, Antonio Santelia, che è l'architetto che firmò il manifesto dell'architettura futurista. Si arruolano tutti, tutti convinti interventisti. Nel 17 Marinetti viene ferito a Linguine, ma un anno dopo è ancora al fronte nell'offensiva finale di Vittorio Veneto. Boccioni e Santelia invece periranno nel conflitto. War dance. Patriotic romance. No, we ain't seen nothing like it since Coronation Day. Oh my, my, my. But when the ticker tape flies and blood is on the rise, you know it's got you in its sway. You've got yourself a war dance. Al termine del conflitto mondiale, Marinetti cerca di strutturare il pensiero futurista in modo più politico. Definisce la sua avversione nei confronti della monarchia, continua a promuovere un nazionalismo che si colora però di un'apertura intellettuale verso il cosmopolitismo. Sostiene le 8 ore lavorative, la creazione di una previdenza per i lavoratori, il suffragio esteso alle donne. E questo maggiore impegno politico lo avvicina a Mussolini, che in quegli anni si sta imponendo in Italia. Insieme a lui, Marinetti partecipa alla adunata di San Sepolcro a Milano nel 1919 e da quel momento il partito politico futurista, da poco fondato, confluisce nei fasci di combattimento. Tuttavia, quando dopo poco l'attività di Mussolini prende una piega più reazionaria, Marinetti si discosta da quella strada, cercando di ribadire l'autonomia del suo movimento. Più che un fascista, Marinetti è e rimane un futurista. Deluso dall'esperienza politica nella vita di Filippo Tommaso Marinetti, ormai quarantenne, irrompe improvvisamente l'amore. Grazie all'amico Giacomo Balla conosce infatti una giovanissima ragazza romana, Benedetta Cappa. Non so se mia madre sia stata più una letterata o un'artista. L'amore per la pittura era cominciato per lei intorno ai 20 anni. Un giorno, passeggiando per Villa Borghese, aveva incontrato Balla. Lui, col suo cavalletto, stava studiando le rifrazioni della luce fra gli alberi. Si misero a parlare e Balla la invitò al suo studio. Lei andò e divenne sua allieva. Poi mio zio Alberto, qualche tempo dopo, le disse: «Se vieni alla mostra di Balla, ti presento Marinetti». E fu così che conobbe mio padre. A parlare alla Marinetti, una delle tre figlie che Filippo Tommaso ha da Benedetta, che sposa nel 1923, perché nascono tre bambine, tutte con un nome imperfetto, stile futurista: Vittoria, Ala, Luce. L'unione tra Marinetti e Benedetta Cappa è profonda, è coinvolgente e prolifica non solo di figli, perché durante una vacanza al mare inventano una nuova forma d'arte, il tattilismo. Filippo Tommaso si sente ispirato da una moglie giovane, bella e sensibile all'arte, tanto da dedicarle più di una poesia in cui la chiama con l'affettuoso soprannome di Beni. Oh Beni, acqua benedetta, caro biancospino, garofano rosso. Sangue in movimento e pulpito di guerra son io. Beni, acqua benedetta, straripante, latte divino, mia corteccia ruvida, io noce del tuo cocco sono. Io canto questi 15 versi alessandrini, domati dalla legge e soggetti al destino. E anche se tu preferisci un verso libero, amali comunque. E non dimenticare che la vecchia parola fedeltà è la più moderna di tutte le parole in libertà. Vedete, Marinetti da incendiario diventa un po' pompiere e le sue poesie cominciano anche a somigliare un pochino a quelle del suo avversario D'Annunzio. Forse è colpa dell'età, forse vuole godere appieno delle gioie della famiglia. Fatto sta che Marinetti è più discreto, più intimista, non ha più voglia di partire per il mondo per diffondere i pensieri del futurismo. La poesia torna al centro dei suoi pensieri e nel 1931 c'è il manifesto della aeropoesia, che, come suggerisce il titolo, si rifà alla velocità e alla leggerezza del volo aereo, ma sempre poesia è, anche se restano le automobili il suo primo amore. A Sua Eccellenza Marinetti è stata donata un'automobile, simbolo di modernità e di velocità, offertagli dagli scrittori e poeti avanguardisti e futuristi. Quello che resta evidente in tutte queste manifestazioni è la capacità di Marinetti di cogliere le suggestioni della sua epoca, di comprendere l'essenza della modernità e di rifletterla nelle sue opere. Anche per questo, se le idee di Marinetti hanno influenzato la cultura del tempo, come dimostra questa dichiarazione del grandissimo poeta americano Ezra Pound. Marinetti e il futurismo hanno dato un grande impulso a tutta la letteratura europea. Il movimento al quale Joyce, Eliot, io stesso ed altri abbiamo dato origine a Londra non sarebbe esistito senza il futurismo. Ma il periodo delle grandi imprese sta volgendo al termine, perché Marinetti comincia ad avere problemi di salute e deve sottoporsi a una complicata operazione che lo lascia in cattivo stato. Nonostante questo, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si arruola volontario, partecipa addirittura alla campagna di Russia. Al suo ritorno si trasferisce con la moglie e le figlie prima a Venezia e poi sul lago di Como a Bellagio, dove il 2 dicembre 1944 muore per crisi cardiaca. Quella stessa mattina all'alba aveva composto i suoi ultimi versi. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala. Hanno volato in alto, hanno fatto cose che hanno lasciato un segno, come questa, la storia di Filippo Tommaso Marinetti. Sono storie di chi è riuscito e di chi ha tentato. Se volete, mandateci i vostri commenti e segnalateci altre vite su cui volete che noi puntiamo il nostro microfono. Scriveteci al falcoelgabbiano@radio24.it. Ciao, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.